La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:29, primi 28 secondi, siamo per una volta finalmente in anticipo in questo lunedì 30 di gennaio in diretta. Vi ringrazio per l'ascolto anche in podcast, vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. continuate, oltre che a tutti, su tutti gli altri argomenti, a scriverci per dirci se volete intervenire sulla serie di trasmissioni che intervalliamo, quelle in cui ovviamente ci occupiamo come oggi invece di vicende di grande impatto di cronaca politica ed economia, ma invece la serie di trasmissioni dedicata a giovani via dall'Italia, o per formazione o per lavoro, sia che lo abbiate fatto e non vogliate tornare, sia che lo abbiate già fatto e siate tornati, sia che vi sia ben chiaro quello che fuori c'è in termini di maggiori possibilità, ma invece, come è avvenuto nell'ultima puntata, con il racconto del perché rimanete qui, per convinzioni e non solo convenienza, ma per opinioni radicate. Avete sentito l'ultima volta, il tema era di una coppia che decideva: i nostri figli preferiamo farli crescere nella nostra città di provincia, siamo cresciuti bene qui, crediamo nel valore familiare, eccetera eccetera. Quindi tutti e tre i casi ci interessano, continuate a scriverci la versione di Oscar @radio24.it. ma la trasmissione di oggi, ve lo dico subito, per chiedervi se volete potete di intervenire all'800240024, è dedicato all'ordine presidenziale di Trump con il veto all'ingresso per i cittadini di 7 paesi e ciò che sta suscitando. Chiamateci per dirci se vi piace o non vi piace. Stamattina il primo sondaggio, assolutamente non rappresentativo dal punto di vista statistico, ma di coloro che ci hanno scritto ad Attenti alle 2 insieme a Alessandro Milan, vedeva in stragrande maggioranza, bisogna dirlo, sms che pervenivano 349-238-6666 a favore della misura e non contro. Sono curioso di sapere in questa fascia come la pensate. Dico solo quattro parole perché abbiamo due ospiti oggi, quindi prima di presentarvi il nostro primo ospite vi richiamo solo il fatto che, come sapete, le proteste dal punto di vista internazionale, l'Unione Europea, la stessa Gran Bretagna, si è aggiunto stamattina il portavoce dei diritti umani delle Nazioni Unite, che ha parlato di un provvedimento meschino, la protesta negli Stati Uniti, le impugnative da parte di giudici federali dello Stato della California. Si tratta di un presidential orders, quindi un ordine esecutivo presidenziale che poi a propria volta dovrebbe essere approvato dal Congresso, ma che immediatamente vigente ha creato un mucchio di problemi, e qui la dico brevemente. Io sono abbastanza senza parole di fronte alla necessità di riregolamentare con criteri più restrittivi l'immigrazione. Questo è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Trump, è uno dei motivi del suo successo, nel vedere che lo staff presidenziale non è stato in grado, almeno così pare, di prevedere ex ante l'effetto che una misura di questo tipo avrebbe determinato nel paese a fronte della sua estensione anche a coloro che hanno un visto permanente di immigrazione, la cosiddetta green card, che equivale a esattamente a questo. La sua applicazione anche a chi ha quindi proprietà, lavoro, casa, famiglia negli Stati Uniti per il solo fatto da provenire ed entrare da quei 7 paesi pone enormi problemi di fondatezza di diritto, uno. Due, in termini di comunicazione, è ovviamente un autogol dal punto di vista delle stesse misure di restrizione dei criteri di ammissione nel territorio americano che hanno fatto vincere Trump. Terzo, da un'idea di un processo decisionale non proprio basato su una valutazione rigorosa delle conseguenze ex ante di misure di questo impatto. Quarto, l'immediata reazione che viene da appunto paesi come l'Iran e l'Iraq, a mio personalissimo giudizio, è l'ultima cosa di cui aveva bisogno la politica americana, che con Trump, altro motivo della sua vittoria elettorale, ambisce a essere una cosa completamente diversa da quella oggettivamente fallimentare di Obama, perché significa mettersi per traverso esattamente governi di paesi rispetto alla cui sistemazione e nei confronti dei cui rapporti una ridefinizione della politica americana di tutto avrebbe bisogno, tranne che della immediata e diretta ostilità. Quindi molti sono i punti sollevati sui quali, a prescindere dai pregiudizi verso Trump o dalle legittime opinioni contrarie alla presidenza Trump, ma che però attraversano in maniera seria una molteplicità di questioni giuridiche, internazionali, di diritto internazionale, di rapporti politici. Ecco, io mi limito a dire questo perché mi avete sentito settimane fa, mesi fa oramai, ma insomma settimane fa, al momento della vittoria di Trump, dire che io non avrei abbracciato l'ipotesi pregiudiziale del contrastare Trump in quanto personaggio comunque portatore di disastri, ma lo avrei giudicato dai fatti, e sulla base di quelli che mi sembrano i fatti di questa misura, devo dire la verità, sono molto molto critico. C'è stato oltretutto chi ha, e secondo me è corretto, richiamato comunque le misure negli anni alle nostre spalle sull'immigrazione americana, in particolare le espulsioni nei 6 anni di cui abbiamo i dati, perché mancano quelli del 2015-2016 della presidenza Obama. Ebbene, in quei 6 anni gli espulsi, gli immigrati espulsi dagli Stati Uniti sono arrivati alla cifra di 2.400.000. Nel totale degli 8 anni della presidenza Bush sono stati poco più di 2 milioni, quindi stiamo parlando di un ritmo di espulsioni superiore ai 400.000 l'anno, e come se l'Italia, fatta le debite proporzioni della sua popolazione, ne espellesse 120.000 l'anno. E invece in Italia suscita contrastanti reazioni politiche l'avvento del neo ministro Minniti, che promette, si dà come obiettivo, l'ha confermato anche ieri, quello di passare almeno a 15.000 l'anno, visto che la media annuale nel nostro paese non supera le 3.000, 4.000 quando va bene, espulsioni davvero di clandestini irregolari. Questo è l'ABC delle cose da sapere, ma il giudizio ha bisogno di persone competenti, non delle mie impressioni. Il primo di questi, e lo ringrazio di essere qua, è il professor Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Buon pomeriggio professore, grazie di essere con noi. Buongiorno Giannino, buongiorno ascoltatori. Che pensa delle, dico, non tanto la misura in sé, ma di tutto quello che abbiamo capito di questa misura? Non le chiedo se è sorpreso, le chiedo un giudizio sulle conseguenze, l'applicabilità, le conseguenze anche nei rapporti internazionali degli Stati Uniti. Che pensa? Beh, intanto una cosa sui numeri che lei forniva, giustamente. È vero, 400.000 circa espulsioni all'anno, però parliamo anche di un paese che assorbe oltre 1 milione. Verissimo. Di migranti all'anno su base regolare, più tutti i clandestini, diciamo così, che sappiamo che entrano, di cui non stimiamo il numero, per cui numeri importanti di espulsioni che riguardano spesso persone che hanno precedenti penali, comunque 9 casi su 10, a dire la verità. Esatto. E su numeri però di accoglienza, diciamo così, che sono giganteschi. E questo su un paese che è costruito come identità sul melting pot plurirazziale, plurireligioso e così via. Come diceva qualcuno, se non ci fossero stati gli immigrati sarebbe toro seduto il presidente americano, mica Donald Trump. Tutto ciò detto, quello che colpisce il provvedimento, da un lato, è il pasticcio, cioè il pressapochismo con cui è stato realizzato. Lei capisce bene che nella prima versione addirittura i veterani, sì, che hanno combattuto, magari avevano avuto il cuore di porco, no? La medaglia per le ferite in combattimento con l'esercito americano, erano tacciabili di non ammissione, addirittura i residenti con la carta verde, cioè cose che sembrano scritte sulla carta del salame con la biro. Questo è quello che impressiona, non solo per il provvedimento in sé, al di là appunto del fatto che si possano avere apprezzare o non apprezzare i principi sottostanti a quel provvedimento, ma perché dà uno spaccato del tipo di professionismo dell'amministrazione con cui ci dobbiamo avere a che fare. Per fare le cose in fretta e rispettare le promesse in campagna elettorale fa queste cose. L'altro elemento che mi sembra di poter dire è che c'è un'enfasi da parte di Trump e della sua amministrazione nel rispetto delle promesse fatte, ma quelle promesse sono state promesse fatte alla propria base elettorale. Nel momento in cui il presidente è eletto, non è più il campione di una parte, è il rappresentante della nazione, che evidentemente esprime dei valori che possono essere quelli repubblicani, che possono essere quelli democratici, ma che deve essere il rappresentante di tutta la nazione. E quando noi ci aspettiamo non moderazione, ma come posso dirle, presa di distanza dai picchi più estremi delle posizioni di campagna elettorale, non è che ce l'aspettiamo sulla prassi dei buoni sentimenti o delle consuetudini, ma perché è una politica che funziona sostanzialmente. Tant'è vero che noi abbiamo visto che cosa? Che Trump è il presidente con il più basso grado di popolarità al momento dell'insediamento rispetto a tutti i presidenti della storia recente. E in genere i presidenti, quando si insediano, invece hanno una popolarità più alta, perché stanno riuscendo a conquistare sulla base, diciamo così, dell'aspettativa di serietà, di comportamento, vediamo cosa fa, una parte di quell'elettorato scettico e soprattutto una parte di quelli che non sono andati a votare. Questo è il punto. Quando abbiamo un presidente che ha un dato di popolarità che è più basso del consenso che ha preso, non parliamo del voto espresso, ma parliamo di un'America in cui metà della popolazione non vota. Capisce? Quindi stiamo parlando di un ridotto della minoranza che non è nell'interesse neanche di Trump e delle sue politiche. Sulle conseguenze sulla politica internazionale. Chiaro che un principio del genere è un principio che rischia di polarizzare, di esacerbare l'opposizione tra appartenenti a culture differenti. Questo non è nell'interesse della sicurezza americana. Io voglio ricordare solo a chi ci ascolta e a coadiuvando quello che dice, che esponenti repubblicani, la prima volta che Trump tirò fuori l'idea di un divieto almeno temporaneo di accesso per liste di paesi musulmani fu all'indomani della strage di San Bernardino, e all'indomani di quella sua prima proposta esponenti repubblicani di punta, Paul Ryan, ma anche Mike Spence, che adesso è il suo vicepresidente, dissero: no, questo è un errore anche per i repubblicani, perché significherebbe esacerbare esattamente i rapporti con quei paesi, come sta dicendo il professor Parsi, con cui dobbiamo cambiare relazioni, ma abbiamo bisogno di un rapporto solido, altrimenti ce li inimichiamo in partenza. Ecco. Ma tanto più che gli americani stanno combattendo ancora in Iraq, sia pure con numeri diversi da quelli dell'invasione del 2003, ma stanno ancora combattendo in Iraq accanto alle forze governative. E lo scopo che dovremmo avere è tagliare l'erba sotto i piedi agli estremisti, togliere argomenti alla propaganda estremista. Con provvedimenti di questo tipo si regalano argomenti alla propaganda estremista, e questo non ha nessun senso, è illogico, è controproducente. Queste sono le cose che lasciano estremamente perplessi. Fare un provvedimento discriminatorio, che oltretutto, come ha visto, ha iniziato a essere bloccato da un giudice di una corte federale di Brooklyn, che potrebbe trovare molti altri ostacoli di carattere giuridico sulla sua strada, ricorsi fino alla Corte Suprema, perché è un provvedimento che è palesemente discriminatorio e palesemente, dall'altra parte, arbitrario. Perché capisce che nel momento in cui si colpiscono alcuni paesi ma non altri, certo, la spiegazione che è stata fornita oggi è: questi sono paesi con i quali governi non riusciamo ad avere una capacità di verificare il flusso delle persone che migrano, perché sono governi instabili, fragili, eccetera. Ho capito, ma con gli iracheni stai combattendo insieme, mi stai dicendo che il governo iracheno va bene per combattere e non va bene per filtrare i migranti? La cosa, francamente, lo stai delegittimando completamente in questa maniera, quindi ti stai indebolendo il tuo principale alleato contro ISIS. Oltretutto, nel momento in cui le cose sul terreno nei confronti di ISIS vanno meno peggio di quanto andassero fino a qualche anno fa, fino a qualche mese fa, noi sappiamo che possiamo aspettarci una diaspora terroristica. A maggior ragione abbiamo tutto l'interesse non a fare filtri impossibili escludendo tutti quelli che vengono dalla regione, ma se noi sappiamo che Daesh o ISIS ha un enorme numero di foreign fighters, quindi vuol dire che quelli che verranno via dall'Iraq e sono probabilmente, dovessero essere implicati col terrorismo, avranno probabilmente il passaporto saudita, egiziano, turco, pakistano, di chissà quali paesi, tedesco magari, americano addirittura, se sono foreign fighters. Di sicuro non hanno il passaporto iracheno, sono una piccolissima parte che ce l'hanno, sono una piccolissima parte che hanno. Ma se, o somali, chi è che ha un passaporto somalo oggi? Ma neanche i somali, voglio dire, ma chi gli dà i passaporti? Quindi anche la motivazione, colpiamo i punti di provenienza del terrorismo, ma quei sono i teatri da cui, in cui c'è il terrorismo, in cui i terroristi si radicano e combattono. Ma i militanti terroristi che combattono in quei teatri, nella maggior parte, non hanno la cittadinanza di quei paesi. Quindi è un provvedimento anche sciocco, in ultima analisi, che rischia addirittura di essere di suscitare falsa sicurezza, la situazione peggiore. Sì, allora, come avete sentito, il professor Parsi, io apposta, immaginando, l'ho chiamato, enumera tutta una serie di critiche. Tra l'altro alcuni mi chiedono, ma è possibile che non si riesca a capire qual è il fondamento giuridico sui giornali italiani? Molti di voi ritengono che non sia chiaro. Guardate, la questione è aperta, vi dico qual è il problema, per esempio, per l'applicabilità di misure di questo tipo, che furono attuate anche all'indomani dell'11 settembre per alcuni mesi. Ma c'è un problema anche nell'ordinamento statunitense, perché il problema giuridico è questo: il regolamento in materia di concessione dei visti, che si chiama United States Citizenship and Immigration Service, allora ACT, vieta esplicitamente di discriminare nella emissione dei visti qualcuno secondo il criterio della nazionalità. C'è una norma esplicita. Il problema è che il divieto di discriminazione è applicato testualmente nel momento in cui il visto viene emesso, mentre qui il problema diventa, si sposta nel fatto in cui si utilizza il visto per entrare. La base delle misure assunte dopo l'11 settembre fu esattamente sulla base di questa distinzione, che è un cavillo, come è evidente, però questa potrebbe essere, secondo molti giornali americani, il fondamento giuridico del potential. Però è una questione aperta, per questo giudici federali la California impugnano, e mica è solo in Italia il problema delle interpretazioni giuridiche. Il senso della norma è chiaro, però, quando si vieta la discriminazione per nazionalità della concessione nel momento in cui il visto viene issued, viene emesso. Però il problema è diverso a seconda poi dell'utilizzo che si può fare per ragioni di emergenza straordinaria e a tempo. Questo è il problema, ma detto questo restano poi tutte le implicazioni, e io ringrazio il professor Vittorio Emanuele Parsi per averci dato la sua opinione molto critica sul significato, la portata, la base, l'impatto, le conseguenze di questa misura. Traffico e una voce diversa dopo il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, e come immaginavo, molti di voi hanno detto: no, Oscar, scusa, l'aria è cambiata, non sentire solo sempre le solite voci, abbiamo bisogno anche di una voce a favore. E infatti questo avevo deciso di fare, perché ricorderete che quando Trump si è avviato alla vittoria e poi ha vinto, ho invitato, molto felice dall'altro da questo punto di vista, perché conosco questa persona da anni e l'ho sempre stimata, molti no, ma io sì, secondo me sbaglia chi non la stima, una delle pochissime giornaliste italiane che, mentre tutta la corrente al 100% o quasi diceva che Trump non aveva nessuna chance, fino all'inizio dei conti dei voti, ancora in quella notte autorevolissimi giornalisti italiani dicevano che Hillary stava vincendo, invece lei ha documentato e scritto in un libro e in tutti i suoi articoli i motivi per i quali prima era convinta che potesse farcela, poi ha iniziato a dire guardate che ce la fa, e poi in definitiva così è stato, dimostrando di poter percepire e analizzare ciò che si muoveva nella pancia dell'elettorato, e nella testa, mica solo nella pancia dell'elettorato americano, quello che poi effettivamente è avvenuto. Su questa base oggettiva di riconoscimento di meriti nell'analisi americana, ho richiamato anche oggi, quando tutti sparano a zero, Maria Giovanna Maglie, giornalista e scrittrice. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Maria Giovanna. Buon pomeriggio Oscar, grazie a voi, grazie a te. Ci dai una voce diversa su come tu analizzi questo provvedimento, sui suoi impatti, la sua base? Faccio faccio una premessa. Mi domando se Donald Trump debba urgentemente cambiare capo della comunicazione e forma di comunicazione, oppure se debba andare avanti così, perché tanto questo metodo durerà 6 mesi, durerà 8 mesi, durerà quel che deve durare, ma poi negli Stati Uniti il sistema democratico tornerà a ragione e il Partito Democratico si dirà che è altrove, in altro modo, che si fa l'opposizione, e il resto del mondo seguirà a coda come sempre fa. Perché il decreto di Trump ha due soli obiettivi: punta da una parte a migliorare i controlli su visti emigrati ed evitare l'arrivo di terroristi e jihadisti, dall'altra a garantire corsie preferenziali per categorie che precedentemente sono state completamente dimenticate e che sono però le vere vittime della violenza e dell'odio islamista, ovvero i cristiani, e qui non so se Papa Bergoglio si straccerà le vesti per questo, gli yazidi e tutte le altre minoranze. Fatta questa piccola premessa, ne faccio un'altra. Nel frastuono di queste ultime 24-48 ore ci sono una serie di bugie obiettive. I 7 paesi elencati nell'ordine esecutivo da Trump sono quelli presi da una selezione che aveva fatto l'amministrazione Obama. Si chiama Terrorist Travel Prevention Act nel 2015 e nel 2016. E fu Obama anche nel 2011 a indicare questi 7 paesi, che sono paesi non solo esportatori di terrorismo, ma senza un'ambasciata americana in loco, quindi senza un controllo diretto dei visti, che è il sistema che gli americani hanno sempre deciso di avere per l'ingresso nel paese. Inoltre nel 2011 Obama fece qualcosa di analogo, fermò gli ingressi di rifugiati dall'Iraq in attesa di una revisione delle misure di sicurezza. Quanto al blocco del numero di rifugiati siriani, Barack Obama dal 2011 al 2015 ne aveva accolti meno di 2000 in tutti questi anni. Poi nel 2016, quando cominciava la campagna elettorale, c'erano stati 5 anni di guerra sbagliata, ha alzato la quota tutto insieme, e questa quota però l'ha alzata in modo tale da suscitare una serie di indignazioni anche da parte, diciamo così, di giornali liberal come il Los Angeles Times, di think tank liberal. Per fare i numeri a chi ci ascolta, l'America negli anni precedenti sotto Obama non accolse poco più di 300 siriani, esatto, l'anno, esatto, e poi esatto, alzò la quota nel 2015 a 15.000. E ci fu però su questo, per il tipo di personaggi che lui faceva entrare, una grande levata di scudo. Un'ultima cosa che voglio dire: il decreto non menziona l'Islam, non fa della religione musulmana un elemento discriminante, e soprattutto durerà 4 mesi, il tempo che serve per migliorare le procedure di selezione di coloro che richiedono asilo. Il testo dell'ordine, per chi avesse avuto il bene di leggerlo, dice che mette al bando coloro che sostengono ideologie violente invece che la legge americana. E Trump dice che è necessario tenere islamisti radicali e terroristi fuori dagli Stati Uniti. Dov'è il razzismo? Dov'è la discriminazione? Non riesco proprio a comprenderlo. E ripeto, durerà 90 giorni, non è arbitrario, non è inusuale. Basta leggere l'Immigration and Nationality Act, la legge sull'immigrazione e sulla nazionalità, che dice, e non l'ha scritta Trump, che qualora ritenga l'entrata di uno straniero o di una categoria di stranieri nociva per gli interessi degli Stati Uniti, il presidente può decidere la sospensione. E allora, cosa ha fatto di incredibile che non sia A, nei suoi poteri, B, nelle sue promesse elettorali, C, nei desideri degli americani, Donald Trump? La mia opinione è che riflettere meglio sui detentori di green cards avrebbe evitato l'80% del problema, però questa è la mia opinione, ecco, per così dire. Anche perché su questo sai che poi la reazione dell'amministrazione di fronte all'esplodere della polemica è stata prima dire no, ma non si applica, poi dice no, si applica, insomma un po' un pasticcio su questo. Tu che sì, pensi? questo è vero, ma credi che avrebbe fermato? No, l'avrebbe depotenziata, e forse il concerto internazionale, che è abbastanza impressionante, cioè rispetto a un presidente che ha giurato 8 giorni fa, ecco, quello avrebbe avuto qualche motivo di riflessione. Ci sono delle ingenuità, probabilmente sono anche legate a voler fare con grande rapidità una serie di cose. Per esempio, 10 minuti fa mi sono collegata con Fox News Live stava ricevendo tutti i rappresentanti dei piccoli business che in questi anni sono stati falcidiati dalla quantità di regole, regolamenti burocratici imposti da Obama e che in molti hanno rischiato di chiudere o chiudere. Cioè, sta facendo una serie di cose talmente diffuse che rischia l'improvvisazione. Questa cosa della green card è una sciocchezza, anche perché non poteva essere prevista nel provvedimento, non c'è dubbio. La green card è una cittadinanza, e quindi è andata, è fatta, se gliel'hai data, gliel'hai data. Allora, sentiamo rapidissimamente che dice Vincenzo da Roma. Vincenzo. Sì, buonasera. Io trovo invece molto pedagogico quello che sta facendo Trump, che è ristabilire un principio che uno Stato è sovrano in casa propria e non deve subire passivamente, come facciamo in quindi Italia. Quindi lei è favorevole. Allora, io devo dire, sugli sms lo sapevo, Maria Giovanna Maglia vi ha spaccato in due. Alcuni, molti dicono impara Giannino, sempre sono favorevole a imparare dalla Maglia, lei lo sa, e altri dicono no, questa è una difesa dell'indifendibile. Lo so, mi è chiaro, però oggi pomeriggio siete più reattivi di stamattina. Stamattina Trump vinceva 8-10 nei nostri sms, ma non mi meraviglio. Grazie anche a Maria Giovanna Maglia, controllato sulla 24, appuntamento con Alessandro Mila domani mattina alle 8:20, attenti a noi due.